aspettando. America 24. Buongiorno, benvenuti ad America 24, da New York Mario Platero. Prima notizia importante e positiva: l'indice Dow Jones ha chiuso il mese di settembre ieri con il più forte aumento per un mese di settembre, normalmente non molto buono, in 71 anni. Pensate, era dal 1939 che non c'era un aumento così forte, il 7,7% in un solo mese. Chi di voi ha acquistato in borsa in America, beh, penso che sarà contentissimo. L'aumento è dovuto ovviamente alla Fed che promette di intervenire, al fatto che c'è qualche notizia economica un po' più rassicurante e che per novembre ci si aspetta una vittoria dei repubblicani. Proprio sul fronte politico abbiamo l'altra notizia: il presidente Barack Obama oggi farà due annunci importanti. Rahm Emanuel, capo di gabinetto controverso e scontrosetto, lascia, cercherà di diventare il sindaco di Chicago, al suo posto nominerà Pete Rouse, silenzioso, efficace, rispettoso, tutto il contrario del suo predecessore, e credo certamente quello di cui ha bisogno Obama nella seconda metà del suo mandato, quando avrà a che fare con una opposizione repubblicana sicuramente più forte e forse persino in maggioranza. Infine c'è un possibile candidato repubblicano contro di lui alle elezioni del 2012, John Thune, senatore del South Dakota, personaggio davvero brillante, ve lo segnalo perché ieri non ha escluso di entrare in corsa. Una delle componenti chiave per un successo di Obama sarà come si sviluppa la situazione in Afghanistan, e noi oggi abbiamo ai microfoni di America 24 di nuovo l'ambasciatore Stéphane de Mistura, il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU in Afghanistan, un uomo chiave per gli sviluppi afghani. Sentiamo intanto cosa ha da dire in materia afghana il presidente Obama. I want to speak to you tonight about our effort in Afghanistan. The nature of our commitment there, the scope of our interests, and the strategy that my administration will pursue to bring this war to a successful conclusion. Buongiorno ambasciatore, rieccoci a parlare di Afghanistan. Questa volta ci concentreremo più sugli sforzi diplomatici. Ha sentito il presidente Barack Obama, che ha confermato, ha promesso che fra un anno ci sarà un passaggio di consegne. Secondo lei è possibile? Prima di tutto bisogna vedere in che condizioni l'Afghanistan sarà in termini di sicurezza e di stabilità a luglio dell'anno prossimo. Secondo, da quello che capiamo, questo è l'inizio del ritiro, non è la fine del ritiro, e questo può dipendere molto dalle circostanze sul terreno. Sta un anno in Afghanistan, o quasi un anno, è come un secolo. Possiamo vedere grandi progressi o grandi regressi. Ecco, ambasciatore, lei ha condotto una missione simile in Iraq, è sempre stato sulla linea del fronte, è sempre stato a rischio, e proprio l'esperienza che lei ha accumulato in Iraq nel cercare di organizzare, di aiutare nella transizione e quindi di avere le Nazioni Unite che si prendono maggiori responsabilità, si dice che lei dovrà svolgere un po' lo stesso ruolo a Kabul. Ecco, è vero? Fino a che punto questo le sarà possibile? L'Afghanistan in molti maniere molto diverso dalla situazione afghana ed irachena, però c'è qualcosa paragonabile. Per esempio, che nel 2007, quando arrivai a Baghdad e quando arrivò anche il generale Petraeus, la situazione era terribile. In poche parole c'era di fatto la guerra civile, 300 morti al giorno. E poi, applicando vari approcci, tra cui quello diplomatico, le cose sono cambiate in meglio. Ora, questo serve a ricordarci che anche in questo momento, che in cui le cose non sembrano andare bene, soprattutto in termini di sicurezza in Afghanistan, la possibilità di avere un'operazione parallela, sia militare, perché quella che sta avvenendo, con un inizio di progresso in termini di dialogo politico, può essere un'opzione comparabile. Come si svolge la sua giornata? Lei ha incontri con alcuni dei leader talebani, riesce a incontrarli? Beh, lei deve capire che in questo devo essere un po' riservato. Posso solo dirle che l'ONU incontra tutti ed è disposto ad incontrare tutti, perché fa parte esattamente della funzione dell'ONU, della sua imparzialità e anche della sua accessibilità. In questo senso abbiamo un valore aggiunto che viene riconosciuto da tutti. e può essere ben utilizzato al momento giusto. Ambasciatore De Mistura, lei fra poco, a gennaio, festeggerà i 40 anni alle Nazioni Unite, eppure ancora oggi si trova al fronte, si trova sulla prima linea, sulla linea del fuoco, ed è un target. Lei ha paura? La 18ª missione in zone di guerra nella mia vita professionale, e ognuna aveva dei rischi e ognuna aveva dei momenti molto difficili: il Kosovo, la Bosnia, Sarajevo, Beirut, l'Iraq 4 volte, quindi ogni volta aveva i suoi rischi. La risposta probabilmente più onesta è sì, ho paura, ma coraggiosamente. In poche parole, sono consapevole per me, ma soprattutto francamente per le 1000 persone che lavorano con me, di quanto non sia un film tutto questo. I rischi sono veri, reali. Abbiamo perso 5 dei miei colleghi l'anno scorso a Kabul. Ma allo stesso tempo sappiamo anche come controllarci affinché questo vada avanti. Ne vale la pena? Francamente, spero di non sbagliarmi, ne vale la pena, perché questo è l'anno cruciale e critico per l'Afghanistan, e non soltanto per l'Afghanistan, ma per le 46 nazioni che sono coinvolte in Afghanistan, tra cui anche il nostro paese. Ecco, il libro di Bob Woodward, uscito la settimana scorsa, ha fatto varie, numerose rivelazioni. Una di queste è che ci sono degli eserciti, tra virgolette, mercenari, e la CIA, questo è stato confermato da Leon Panetta, il direttore della CIA, ha assoldato 3.000 soldati locali, 3.000 mercenari, per avere un vero e proprio esercito. Ecco, questo lo sapevate voi o per lei è stata una rivelazione? Così chiaramente mi è parso piuttosto una rivelazione. Comunque eravamo consapevoli che ci sono delle presenze locali e dei militari che vanno oltre a quelle tradizionali, ma questo, devo confessarle, l'abbiamo saputo in tanti altri conflitti, anche in Iraq veniva. Quindi è un po' obbligatorio per tutti appoggiarsi, diciamo, a delle milizie locali che diano una mano? Certamente in Iraq, quando ti fu la richiesta, l'offerta a circa 80.000 iracheni di essere parte di quelle che venivano chiamate delle forze locali, con uno stipendio preciso e così via, non sorprese nessuno. Erano i migliori difensori del proprio territorio, ovviamente, e Al-Qaeda infatti ne restò molto danneggiata. Dunque anche gli italiani saranno costretti a fare lo stesso. Lei sa se noi abbiamo un piccolo esercito privato in Afghanistan? No, non sono affatto al corrente e non credo che sia il caso. E come si comportano i nostri soldati? Lei li avrà conosciuti? Che ruolo hanno? E lì lei mi trova di parte, e io devo dire che ogni volta che sono stato erate, sia vedendo come si comportano, ma anche come sanno trattare con la popolazione locale, è veramente, si vede quanta la professionalità e l'esperienza accumulata dopo tanti anni in tante missioni sia messa a buon frutto. E secondo, i nostri carabinieri, quali sono costantemente considerati un po' il fiore all'occhiello per quello che è dare la sicurezza. Non possiamo che esserne fieri. Riesce a farsi degli spaghetti ogni tanto? Non molto, riesco soprattutto a sognarli di notte, e soprattutto i spaghetti alle vongole veraci, che mi mancano moltissimo. Ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Il chitarrista dei Bloc Party, Russell Lissack, è stato al centro di un curioso incidente. Mentre era in Sudafrica, in vacanza peraltro, è stato morso, pensate, da un leone. E Lissack sta bene, però insomma si è preso un bello spavento molto grosso, e dunque ci è sembrato giusto dedicare a lui, visto che i pericoli non sono soltanto in Afghanistan ma anche in vacanza nella savana, la canzone del giorno, Bloc Party, The Modern Love. To be lost in a forest, we could have dreamed. You've been trying to reach me, pull me above. To be lost in a forest, we could have dreamed. I've been paid. To be lost in a forest, we could have dreamed. You've been trying to reach me, pull me above. To be lost in a forest, we could have dreamed. I've been paid. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.